Salve, sono Stefania e sono qui a Radio Big World con il mio amico Giorgio. Questa è un'enne puntata del Popolo di Barabba, dico enne perché non mi ricordo il numero. Dunque, stamani mattina vi volevo raccontare la mia esperienza del 21 aprile. Il 21 aprile ho avuto un incontro con l'associazione EMA Pesciolino Rosso. Che cos'è? È un babbo e una mamma che hanno creato questa associazione e girano l'Italia, girano nelle scuole, entrano negli oratori, dove ci sono i giovani per raccontare la loro storia, per fare una testimonianza su ciò che gli è successo, perché pensano che la loro storia possa essere utile a chi l'ascolta. A questi due genitori, papà Gian Pietro e mamma Serenella, mi sembra, sì, che cosa è successo 4 anni fa? Che il loro figlio Emanuele, 16 anni, un ragazzino pieno di vita, gioioso, curioso, passionale, pieno di iniziative, volenteroso a scuola, credo che a scuola andava anche abbastanza bene, senza lode né gloria, però insomma faceva il suo. E a un certo punto il loro figlio andò ad una festa e in questa festa circolava droga pesante, droga, gli acidi. A questo ragazzo gli fu data una dose, ha fatto veramente la cosa più brutta che potesse fare, ha accettato, l'ha assunta, è praticamente come impazzito e si è gettato nel fiume. Loro abitano in provincia di Brescia, vicino a Salò. Il babbo è stato avvisato alle 3 di notte da un 19enne amico che gli ha detto: Emanuele è morto affogato nel fiume perché ha assunto una dose di droga eccessiva. E questi genitori appunto girano per le scuole, per gli oratori, come ho detto prima, per tutte le aggregazioni dove vengono chiamati, le abbiamo chiamate anche noi, e raccontano la loro storia. Insieme a loro c'era anche una mamma che si è avvicinata alla loro associazione dopo la sua esperienza. Lei è stata, diciamo, ha avuto un destino diverso, il suo ragazzo 16 anni, dopo 2 anni di comunità, sembra che ora stia meglio. Mentre Gian Pietro raccontava la sua storia, mi sono venute in mente altre storie del nostro territorio, perché nel nostro territorio ce ne sono stati tanti di Emanuele, non hanno fatto la sua stessa fine, non sono morti affogati perché impazziti, ma sono morti di overdose, si sono suicidati in altri modi. E mentre papà Gian Pietro raccontava la sua storia dicendo che lui era un top manager, era una macchina che produceva soldi, sempre di più, sempre molto impegnato, sempre poco tempo da dedicare al figlio, ma queste riflessioni che lui faceva a voce alta se ne è accorto dopo, quando il figlio praticamente non c'era più. Quindi Gian Pietro esortava e raccontava questo la mattina ai ragazzi del Palazzetto dello Sport, erano oltre 380, e la sera agli adulti. Raccontava che non ci sono regole, non ci sono cure universali per tutti. Ogni caso è un caso a sé. Ogni ragazzo che sta male per cause proprie per cause sue non sono le cause di un altro ragazzo, e che quella del genitore è davvero un'impresa molto, molto difficile, oltre che dolorosa. È difficile leggere con un libro che lo metti troppo vicino. Bisogna sempre metterlo alla giusta distanza, e così bisognerebbe fare anche con i nostri ragazzi. Ma immaginate un genitore che si crede pieno di amore, magari è un amore malato, ma non se ne accorge, e quindi va avanti con le sue convinzioni fino al giorno in cui il figlio non gli presenta il conto. Perché non è certo colpa dei genitori se i figli si drogano, ma indubbiamente è una grossa responsabilità dei genitori. Un genitore, io credo, che non faccia delle scelte per indurre il figlio, ma fa delle scelte per salvare il figlio. Che poi queste scelte si verificano sbagliate, è sempre dopo che ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo quando ti rendi conto che tuo figlio se ne sta andando. Ha scelto, perché è una scelta dopo le esperienze che ha avuto, sceglie di suicidarsi, perché anche questa è una forma di suicidio, perché sanno perfettamente questi ragazzi che la droga uccide, e nonostante questo la assumono, pensando di essere forse più forti, pensando che loro possono uscirne quando vogliano, non pensano che purtroppo la droga è sempre più grande e più forte di loro. La mamma che raccontava la sua storia mi ha fatto davvero accapponare la pelle, perché mi ha detto che suo figlio è iniziato a 13 anni. A 13 anni si è fatto la sua prima canna. Ma pensate, 13 anni è ancora un bambino. A 13 anni si è fatto la sua prima canna. Poi, anche nel caso di questa mamma, una famiglia benestante, una famiglia che pensava molto a lavorare, non gli mancava assolutamente niente, e a questo figlio non gli mancava soprattutto assolutamente niente di tutto ciò che era materiale. A questo figlio gli mancava quell'amore, come lui voleva, della sua mamma probabilmente e del suo babbo. Quindi a 13 anni la sua prima canna, poi non gli è bastato perché gli è piaciuta. Quella canna gli ha riempito quel vuoto enorme che lui sentiva nel suo cuore. E quindi una alla settimana non era più sufficiente, quindi due, poi tre, poi quattro, poi una al giorno, poi due, tre, 10 al giorno, e poi si passa ad altre sostanze perché quella non ti riempie più, hai bisogno di altro, e così via. Questo ragazzino da 13 ai 16 anni ha spacciato, ha dormito nelle stazioni, cioè è andato via di casa a 16 anni, minorenne, la mamma non sapeva dov'era, con i carabinieri che lo stavano cercando, ma lui non si faceva trovare. Cioè una storia davvero incredibile. Poi questa mamma ha avuto, non so, il coraggio, dico coraggio, e anche l'intuizione, e soprattutto ha avuto un amore sviscerato, vero, per questo figlio che si era accorta che lo stava perdendo, che non ha voluto essere complice della droga, quindi ha rifiutato il figlio in casa. 16 anni, pensate, io ti accolgo, ti abbraccio stretto, stretto, e ti amo con tutto il cuore, però non ti posso accogliere così, drogato. Io non posso essere complice di una sostanza. Quando avrai deciso di cambiare e di entrare in comunità, vieni dalla tua mamma e dal tuo babbo. E così è stato. Praticamente lo hanno salvato. Sono stati 7 mesi senza vederlo. E questa mamma si chiedeva, dopo 7 mesi, se avrebbe mai riconosciuto suo figlio. Immaginava di vedere chissà che cosa in quella comunità, e invece quando è andata nella comunità ha visto una 50ina di giovani bellissimi, meravigliosi, pieni di entusiasmo, di amore, di passione per quello che facevano, perché nella comunità li facevano lavorare. E suo figlio, che lo ha visto con occhi diversi, che lo ha visto forse per la prima volta, e l'accettazione di quel figlio con i suoi piercing e con i suoi tatuaggi, cosa che prima rifiutava, non lo voleva, perché la sua casa era perfetta, non mancava niente, sopra mobili di valore, e quel figlio non poteva avere i capelli lunghi, non poteva avere il piercing, non poteva avere i tatuaggi, doveva essere il damerino che lei voleva, spogliandolo di tutta quel bagaglio di personalità che quel ragazzo si era costruito fino ai 13 anni. Pochi, perché sono veramente pochi, però quel ragazzo aveva una sua identità e quindi non era un oggetto della mamma. Ecco, poi quando la mamma si è accorta di questo, allora ha agito da mamma. Quindi auguri davvero a tutti quei genitori che riescono a vedere i loro figli con gli occhi da genitori che amano i loro figli, non con gli occhi dei genitori che vorrebbero il figlio perfetto. Grazie.